Capitolo 11. Coppia di opposizione minimale. L, laterale alveolare semplice, doppia L, laterale alveolare geminata. Esercizio 1. Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia della L e della doppia L. 1. Vile. Ville. 2. Polo. Pollo. 3. Vale. Valle. 4. Ala. Alla. 5. Pala. Palla. 6. Calo. Callo. 7. Molare. Mollare. 8. Cela. Cella. 9. Stele. Stelle.